È una risposta serena, razionale, grande al bisogno che ha questo paese di uscire da una situazione difficile, una situazione nella quale da troppo tempo è inchiodato lungo uno schema di contrapposizione e di odio, e questo gli ha impedito di affrontare e di vincere tante sfide di modernizzazione di cui l'Italia ha bisogno. La scelta di 3.300.000 persone di votare per costituire un partito, di non votare contro qualcosa o contro nessuno, ma per, è credo una delle pagine più belle della storia politica italiana, e credo che sia una festa per tutta la democrazia italiana.